Promessa costante girò l'angolo. Anche se i leoni non c'erano più e nemmeno il cancello, l'ingresso era là dove lui lo ricordava. Avrebbe voluto correre, come aveva fatto da bambino con un ramo di salice in mano, e rifugiarsi nei cortili, al riparo da quegli occhi curiosi. Invece si raddrizzò e camminò lentamente lungo il muro, leggendo distrattamente gli slogan a vistosi caratteri rossi che ora vi erano dipinti: Viva il Partito Comunista e Liberate Taiwan. Finalmente arrivò all'ingresso, ma quando sbirciò dentro provò un senso di smarrimento e si chiese se la memoria non gli avesse giocato un brutto tiro e queste non fossero le mura che lui cercava. Nel cortile di ricevimento erano infatti ammucchiate alla rinfusa delle minuscole case, così vicine l'una all'altra che un uomo vi poteva appena passare in mezzo. Ammesso che ci fosse qualcuno, in quel posto regnava un silenzio spettrale, come in un palcoscenico vuoto, con i pani di polvere di carbone sulle soglie e la biancheria appesa in alto ad asciugare come scenario. Fece un passo e si voltò per guardare l'ingresso, eppure era largo e alto come se lo ricordava, e là, sulla terza pietra, dal fondo a sinistra, riconobbe il primo carattere del nome della scuola. Era riuscito a incidere soltanto quello quando suo zio, talento coraggioso, lo aveva sorpreso. Era stato l'ultimo capodanno che avevano trascorso insieme nella casa dei Chang, prima che Giada Lucente e Spirito Risoluto partissero per le montagne. Lentamente si avviò per lo stretto vicolo, tortuoso come il percorso di un labirinto. «Wei!» chiamò con voce rauca. «Wei!» Si avvertì come un fremito nelle case, ma nessuna risposta. Una volta si girò a guardare, ma la folla era rimasta al cancello. Ora la solitudine che aveva desiderato lo spaventava, ma proseguì perdendo l'orientamento. A un certo punto gli parve di intravedere una parte del muro interno del cortile delle udienze contro il quale erano addossate ora una dozzina di casupole. E un edificio più grande degli altri poteva essere la sala degli antenati di un tempo, benché non restasse traccia delle colonne rosse e le porte fossero state murate con mattoni e sostituite da file di minuscole finestre. Poi, svoltato un angolo, capì improvvisamente dove si trovava. Ora il cancello del trifoglio dava accesso a un altro vicolo, ma miracolosamente era rimasto intatto, benché fossero scomparsi i muretti su entrambi i lati. Avanzò lentamente e, dopo averlo attraversato, rimase dove si era nascosto, nell'ombra, la notte prima di lasciare i cortili, abbandonandosi ai ricordi. Aveva visto l'una di primavera e 20 d'agosto seppellire la scatola degli scacchi, così piccola che l'avevano nascosta sotto la settima pietra nella settima fila del sentiero. Ricordati la storia della fanciulla tessitrice e del bovaro, aveva detto 20 d'agosto. Aveva la certezza che gli altri tesori fossero già scomparsi da tempo, ma la scatola degli scacchi era un'altra cosa. Per un attimo si domandò se l'una di primavera l'avesse recuperata dopo la liberazione, ma poi sentì dentro di sé che non era così. Era ancora sepolta da qualche parte al sicuro entro i cortili. Si voltò e cercò con gli occhi il cortile del Cuore Saggio. Un tempo era proprio là, accanto al giardino del cipresso. Ma ora non ve n'era traccia. Improvvisamente ebbe paura e gli parve di riudire la voce del quadro che diceva in tono asciutto: Allora potrebbe essere morta. Potrebbe essere morta. L'aveva fatta vivere lui nel suo cuore per tutto quel tempo. Scosse la testa. No, se lei fosse morta, la sua perdita gli avrebbe provocato una fitta, come se l'avessero mutilato. Wei! Chiamò di nuovo. Ho bisogno di informazioni, per piacere. Si sentì un rumore di imposte che venivano chiuse. Non mi riconoscete? Volevo urlare. Non mi riconoscete, sono cinese. Vattene, diavolo straniero! Urlò qualcuno. Si girò di scatto. Il cancello del trifoglio era affollato di spettatori. Erano gli stessi che aveva lasciato all'ingresso principale. Non capiva chi avesse parlato. Un tempo abitavo qua. Disse ad alta voce: Sto cercando mia sorella, si chiama Chang, luna di primavera. La sua famiglia è vissuta qua per infinite generazioni. La folla non diede segno di averlo sentito e tantomeno capito. Infine, un ragazzo sui 12 anni, con una sciarpa rossa al collo, uscì dalla casa più vicina. Aveva i capelli tagliati corti come i Marines americani e se ne stava impettito con le mani sui fianchi in atteggiamento di sfida. La vecchia non vive più qui. Noi invece sì, noi, il proletariato. Vattene, tu non sei benvenuto qui. Tu sei vestito come uno straniero. Ma questo era il Lao Kia di mia sorella. Il ragazzo sputò. Lao Kia, puh! Sulle sue labbra le parole risuonarono come una bestemmia. Vattene, mostro, spettro! Disperato, Promessa Costante si voltò di nuovo verso la folla che lo osservava, estraendo da una tasca della giacca la foto di Luna di Primavera. Nessuno di voi conosce questa donna? Un vecchio allungò una mano. Si passarono la foto l'un l'altro e infine gliela restituirono senza mostrare di averla riconosciuta. Andatevene ora, tutti quanti! Urlò il ragazzo. Nessuno si mosse. Andatevene o chiamerò mio fratello. È un soldato dell'esercito di liberazione del popolo. Lentamente la folla cominciò a disperdersi. Il ragazzo stava a osservare, impassibile, finché anche Promessa Costante se ne andò, dirigendosi verso il pinnacolo della pagoda d'inchiostro. Come poteva essere stato così sicuro di ritrovarla dove se l'era sempre immaginata? Certo, si erano persi solo per un giorno, al massimo una settimana, ma sembrava una vita. Ora non poteva fare altro che tornare all'albergo e chiedere di Giada Lucenti o di Spirito Risoluto. Gli avrebbero detto dove erano le sue ceneri. Ma nel vicolo, in un punto in cui il ragazzo non poteva vederli, lo aspettava il vecchio che aveva allungato la mano per prendere la foto. Fece cenno a Promessa Costante di seguirlo, portandosi una mano alla bocca per raccomandargli di star zitto. Imboccarono un meandro di vicoli serpeggianti attraverso quelli che erano stati i cortili della famiglia. Poco dopo, in un angolo così angusto che la luce della sera appena vi penetrava, l'uomo indicò una porta e indietreggiò, correndo via fra due casupole e scomparendo alla sua vista. Promessa Costante si guardò intorno. Non c'era nessuno. Non si sentiva alcun suono se non il debole trillo dei campanelli delle biciclette da qualche strada vicina. Bussò piano alla porta. Sorella! Sussurrò. Sorella! Batté di nuovo. La porta si aprì. Una donna minuscola, avvizzita, coi capelli bianchi tagliati sotto le orecchie, lo guardò. Lui non la riconobbe finché lei non gli prese le mani e parlò. Ti aspettavo, disse. Soltanto la sua voce non era cambiata. Ti aspettavo, ripeté facendolo entrare nella stanza. Non era alto, ma istintivamente abbassò la testa per non toccare il soffitto. Sedettero a un tavolino, l'uno davanti all'altra. Lei gli teneva le mani e lo scrutava, annuendo lentamente come per assicurarsi che fosse veramente lui. E lui, ora che finalmente era riuscito a trovarla, non riusciva a parlare. Scrutò ansiosamente la stanza, posando infine lo sguardo sul volto di Luna di Primavera. Si era sbagliato. Nemmeno i suoi occhi erano cambiati, chiari e luminosi, anche se circondati da rughe che trattenevano le lacrime. Nulla in quella stanza poteva far pensare che quella fosse l'abitazione di Luna di Primavera. Non un libro, una pergamena, una fotografia, soltanto pentole e scatole ammucchiate per terra, un copriletto sbiadito e piantine di senape appassite appese a una cordicella. Alle pareti, annerite dal fumo proveniente dal fornelletto a gas, non era appeso nulla a eccezione di un calendario su cui era fotografata una ragazza in pantaloncini color khaki e scarpe da ginnastica nell'atto di saltare. Nulla rivelava che Luna di Primavera viveva proprio lì, se non fosse stato per la squisita pulizia di ogni misero oggetto e per l'ordine. Un tubo al neon spandeva una luce azzurrognola. Improvvisamente lei cominciò a parlare, ripetendo senza fiato una lista di cose che si era ripromessa di raccontargli, una lista che era diventata sempre più lunga col passare degli anni. Parlava a frasi sconnesse, come se, venuto finalmente il momento di confidarsi, temesse di non avere il tempo di dire tutto quello che le stava a cuore. Parlò di vista gloriosa e di vista brillante, inservienti nei laboratori dell'Accademia delle Scienze, sospetti perché avevano studiato all'estero, di nuovo destino, maestro di scuola in campagna, dei suoi tre pronipoti, volontari nella comune del Buon Raccolto a Sinkiang. Gli disse che là era nata la figlia di Gelsomino d'Inverno, Primavera di Giada, la pronipote che lei stessa non aveva mai visto. E parlò di 20 d'agosto. Che se la cavava bene, anche se non aveva capito capito bene cosa facesse. Poi, senza interrompersi, si informò di Promessa Costante della sua famiglia, esaminando le foto che lui le aveva portato di Nancy, alla quale lei aveva insegnato cinese a Chungking, e dei suoi figli. Mary, che frequentava un corso post-universitario, e i due ragazzi gemelli. Sorridendo e annuendo, l'una di primavera continuava a ripetere i loro nomi fra sé. Com'erano belli e intelligenti, esclamò. Che tesoro dovevano essere per i loro genitori. Indugiò su una foto in particolare, quella di Mary, il giorno della laurea. Come le somiglia, osservò. Come poteva dirlo? Si domandò lui. L'una di primavera non aveva mai visto sua figlia. Forse anche lei aveva scorto la somiglianza con Giada Lucente. Al pensiero della nipote si rese improvvisamente conto che l'una di primavera non aveva accennato a lei. Era possibile che avesse ancora delle riserve nei suoi confronti dopo tutti quegli anni? Stammi bene a sentire, gli aveva detto. Sposa una straniera e non avrai patria. Sposa Nancy e non sarai più un cinese. Di colpo lui sentì il desiderio di vederla, di dirle cosa? Che aveva avuto ragione? Forse. Se la ricordava al fianco di Chuen Lai alla conferenza stampa. Era venuta da Chungking per fungere da tramite fra i comunisti e la gente di Chiang, dopo che si era formato il fronte unito contro i giapponesi. Sulle prime non l'aveva riconosciuta e, benché avesse visto la madre in fotografia, nemmeno Nuovo Destino, che allora frequentava l'università. La lunga marcia l'aveva infatti invecchiata al punto che pareva anziana quasi quanto l'una di primavera. Ma era ancora alta e snella come quando aveva marciato in testa alla sua prima sfilata e lui l'aveva guardata attraverso uno spiraglio nelle tende, in collera perché non l'aveva portato con sé. Chissà se lei ricordava. Sorella, disse, e si interruppe. L'una di primavera stava ancora osservando la foto di Mary e lui si accorse che le era caduta una lacrima. Di nuovo ebbe paura. Certo, e mia nipote? Chiese. L'una di primavera scosse la testa senza alzare gli occhi dalla fotografia. Mia figlia, mormorò, e lui capì che Giada Lucente se n'era andata. Per un attimo ho pensato che fosse lei, proseguì l'una di primavera, ma finalmente alzò gli occhi e anche se erano lucidi per le lacrime, non gliene sfuggì nessuna. Non è una storia facile da raccontare, disse. Con cura mise la foto sul tavolo e, prolungando il silenzio, versò il tè dal termos nelle due tazze che aveva posato sul tavolo. Promessa Costante rimase ad aspettare mentre lei sorseggiava lentamente. Quando riprese a parlare, la sua voce era sommessa, come se cantasse una canzone che richiedesse una gamma di toni di cui lei non disponeva più. Dopo la liberazione, eravamo tutti insieme, mia figlia, spirito risoluto, nuovo destino, sua moglie e io. Abitavamo nel cortile del Cuore Saggio. Il resto della casa e la terra furono ceduti allo Stato perché mia figlia voleva dare l'esempio. Io non mi opposi. Dopo l'occupazione di Suzhou da parte dei giapponesi e la guerra contro il Kuomintang, molti erano rimasti senza casa e a noi, scomparse le anziane e virtù splendente, bastava quel che avevamo. A mia figlia furono affidate grandi responsabilità. Dopotutto aveva partecipato alla lunga marcia ed era un membro direttivo del partito. Anche suo marito era un eroe della rivoluzione. Nuovo Destino e sua moglie insegnavano. Io rimasi a casa a curare i loro figli. Decisi di adattarmi alla nuova vita. Tenevo i miei dubbi per me. Dopo mezzo secolo si stava ristabilendo l'ordine. La gente lavorava, i mendicanti erano scomparsi, non cadevano più bombe. E non avevamo bisogno di una carriola piena di banconote per comprare un paio di scarpe. Anche se erano tutti poveri e indossavano abiti blu di cotone, il cibo era razionato e i bambini mi schernivano per i miei gigli dorati. Che importanza aveva? Avevo visto molte cose nella mia lunga vita e ora ne vedevo delle altre. Non mi sorprendeva che anche i comunisti avessero bisogno di tempo per scoprire cosa funzionava e cosa no. La Cina è antica. E i cinesi sono tanti. Speravo che tutto andasse per il meglio. Se talvolta non nutrivo simpatia per tutti questi cambiamenti, confidavo in mia figlia. L'una di primavera si interruppe. Lui avrebbe voluto prenderla fra le braccia e confortarla, ma non lo fece. Rimase immobile. Tuttavia, Proseguì come se non ci fosse stata quella pausa. La vita non era priva di dolcezza. Qualsiasi cosa succedesse fuori del nostro cortile, qui dentro eravamo. La sua voce diventò di nuovo un sussurro. Qui dentro eravamo una sola famiglia. Eravamo a casa. Inspirò a fondo, trattenendo il respiro per un momento che sembrò troppo lungo. Poi disse chiaramente, senza più mormorare: L'attività di mia figlia era clandestina, ma molto importante. E nella primavera del 1966. Liu Shaoqi la portò con sé in una missione diplomatica in Pakistan. Io ero così fiera. Comprai della seta e le feci un vestito. Era color lavanda, con rami di prugno in fiore. Al suo ritorno mi diede una foto in cui lei indossava quel vestito nell'atto di salutare i dignitari. Me la misi accanto al letto. Si interruppe di nuovo, fissando ora la brandina nell'angolo. Lui ricordò vagamente di aver letto un resoconto di quella visita di stato. Ma quando aveva ricevuto la lettera, se n'era già scordato. Più tardi quell'estate, proseguì l'una di primavera, mi capitava di sorprendere i miei familiari che sussurravano fra di loro. Spesso sorridevano, mi chiedevano se ero stanca e mi raccomandavano di andare a riposare, ma i loro occhi non sorridevano mai. I pronipoti erano via spesso. Spirito risoluto invecchiò da un giorno all'altro. I suoi capelli erano bianchi. Disse che dormiva male. Io lo rimproverai perché non voleva consultare un dottore, ma lui mi rispose semplicemente che non c'erano rimedi per il suo male. In autunno, nuovo destino e sua moglie non tornarono a insegnare. Dissero che tutte le scuole erano chiuse. Eppure, come i bambini, si assentavano spesso per settimane intere. Le riunioni di quartiere che un tempo si tenevano per risolvere una questione importante ora venivano convocate quasi ogni sera. Il quadro disse che dovevamo cacciar fuori i mostri e gli spettri, le spie capitaliste che si erano infiltrate nel partito, nel governo, nell'esercito e nelle scuole. Stavamo seduti per ore e ore in cerchio sugli sgabelli di bambù a studiare gli scritti del presidente, ripetendo più e più volte lo stesso brano come lo scolaro più zuccone. Una volta. Una vicina paralitica lasciò cadere inavvertitamente il suo libro. Lo obbligarono a mettersi in posizione di decollo, a braccia aperte come fossero le ali di un aeroplano, finché svenne. Per quanto fossi stanca o annoiata, dovevo stare allerta. Nel frattempo, mia figlia non faceva che scrivere, dimagriva, talvolta stringeva le mascelle e digrignava i denti. Quando spazzavo per terra, trovavo i pezzetti di carta che aveva strappato. Dapprima pensai che fosse un lavoro sulla lunga marcia, poi capii che stava scrivendo e riscrivendo la sua autocritica diretta al partito. L'una di primavera deglutì più volte, lentamente si portò la tazza alle labbra. Ora le lacrime le scendevano liberamente, bagnando la casacca di cotone blu. La sua mano tremava. Promessa Costante aveva già letto diverse storie del genere, riportate da profughi che avevano attraversato a nuoto le acque infestate dai pescecani per raggiungere Hong Kong e sfuggire a una persecuzione che la maggior parte delle persone non capiva. Il proprietario di un gatto che era stato bruciato accidentalmente si era autoaccusato di aver attaccato il presidente perché Mao è l'omonimo di gatto. Che cosa poteva aver scritto, già da lucente nella sua autocritica, lei che aveva marciato insieme a lui? Anche lei aveva un gatto che miagolava troppo. Ma l'una di primavera aveva ripreso a parlare. Un mattino tutta la famiglia era riunita. Una dozzina di guardie rosse fece irruzione mentre noi stavamo facendo colazione. Come osate? Urlai. Ma già da lucente mi mise a sedere e seppi che dovevo restare zitta, immobile. Persino Gelsomino d'inverno. Anche lei una guardia rossa, non si muoveva. Spaccarono un cavallo Tang che avevo comprato in ricordo di un altro, esitò. Bruciarono i libri nel braciere e così pure i ricordi che avevo tenuto nella mia scatola ricamata. Le tremava la mano. Tirò fuori un fazzoletto dalla tasca per asciugarsi gli occhi. Di nuovo lui provò il desiderio di confortarla, perlomeno di prenderle una mano. Invece chiuse gli occhi per rispettare il suo dolore, rivedendola com'era quel giorno sull'aereo mentre gli sorrideva, tenendo stretta l'unica cosa senza la quale non poteva viaggiare. Si domandò se dovesse interrompere la sua storia, ma quando lei proseguì la sua voce era impersonale, come quando, a lui bambino, aveva raccontato storie di atrocità compiute dagli imperatori, dagli dei e dagli uomini più crudeli. Quei ragazzi urlarono per ore, sputando e agitando i pugni e scrivendo su finestre, muri e porte: revisionisti, controrivoluzionari e ammiratori dei quattro vecchi e nemici del popolo. L'ultimo se n'era appena andato quando tornarono tutti. Una ragazza grassa con delle forbici in mano mi ordinò di alzarmi. Spirito risoluto protestò. Tre ragazze lo colpirono alle spalle con spranghe di ferro. Lui cadde. Rapidamente mi alzai. Quella grassa mi strappò la mia forcina d'oro disfando il nodo. Le trecce, che non erano mai state tagliate, ora furono gettate via fuori dalla finestra. Poi i ragazzi, stanchi del gioco, filarono via ridendo. Anche quando restammo soli, nessuno di noi parlò, come se le nostre parole dovessero essere mannaie che potessero rimbalzare un giorno contro di noi. Curammo spirito risoluto. Quei colpi lo avevano ferito nel profondo dell'animo. Poi mia figlia mi rimase accanto finché cadde la notte, accarezzandomi i capelli senza una parola, senza una lacrima. La sua voce si smorzò. Lui aspettava. La storia non era finita, lo sapeva. Fuori si sentivano l'acqua che cadeva sul selciato, voci soffocate, una porta che si chiudeva. Il primo giorno della decima luna, mia figlia e suo marito furono arrestati. Nessuno chiese il motivo, la loro destinazione o il giorno del loro rilascio. Poi seppi che le guardie rosse li avevano trascinati davanti a un raduno popolare e li avevano accusati di tramare contro la rivoluzione. Queste le prove. Il quadro aveva indossato un abito di seta color lavanda. Lo si poteva vedere dalla fotografia. E in Pakistan un uomo di ceneri sapienti l'aveva vista spedire una lettera diretta nell'America imperialista. Si interruppe di nuovo, ripetendo il nome Ceneri Sapienti come se spiegasse tutto. Lui l'aveva già sentito. Ceneri sapienti? Chiese. Sì, un piccolo villaggio del nord dove molti anni fa un debito non fu pagato. Dove. Ora mormorava fra sé parole che lui non poteva capire. Aspettò, temendo di disturbarla. Infine, pronunciando il nome della figlia, parlò di nuovo con voce ferma, benché pronunciasse le frasi lentamente, quasi facendosi violenza. Già da lucente spirito risoluto rifiutarono di confessare o di inginocchiarsi, affermando ripetutamente la loro fedeltà al partito. Rimasero in cattività per settimane, subendo interrogatori e negando per iscritto il tradimento di cui erano accusati. Nonostante tutti me l'avessero sconsigliato, un giorno andai alla prigione per chiedere loro di riconsiderare la loro ostinata decisione. Era l'unico modo di poterli vedere. Sotto gli occhi delle guardie, sedetti a un tavolo davanti a mia figlia e a suo marito, e lessi le parole del presidente: tutti i nostri quadri, quale che sia il loro rango, sono servi del popolo, e il nostro compito consiste nel servire il popolo. Come possiamo essere riluttanti ad abbandonare i nostri lati cattivi? Lessi e lessi. Ogni parola, ogni atto e ogni politica devono conformarsi agli interessi del popolo, e se si verificano degli errori devono essere corretti. Questo è ciò che significa essere responsabili verso il popolo. Lessi un'altra pagina. Per tutto il tempo i miei occhi rimasero asciutti. Le troppe lacrime, troppo a lungo trattenute, si erano mutate in pietra. Quando venne il momento di andarmene, li supplicai di cedere. Cedi, figlia mia, devi cedere, dissi. Ma lei si limitò a sorridere. Ebbero la precauzione di aspettare qualche minuto dopo la mezzanotte del 26 dicembre, in modo che i loro suicidi non coincidessero col compleanno del presidente e non causassero guai alla famiglia. Non vidi mai i loro corpi. Ripiegò con cura il fazzoletto in modo che gli angoli coincidessero e lo rimise in tasca. Poi, alzando gli occhi, disse: di lì a poco rimasi io soltanto nei cortili. Ma non potevo resistere. Di notte lo spettro di mia figlia gridava. Ora che lei era scomparsa, la catena si era spezzata. Quel che la matriarca aveva previsto non era il mio destino. Dopotutto. La sera dopo, seduta al tavolo, l'una di primavera guardava la piccola stanza dove aveva vissuto negli ultimi 5 anni e pensava che per la prima volta quello era diventato veramente un luogo di festa. Non c'erano lanterne di seta rossa, cavalli tang o sedie di palissandro, nessun cantastorie cieco né un musicista o un acrobata, ma alla sua sinistra era seduto l'uomo che era suo figlio, benché lui stesso non lo sapesse, e alla sua destra l'uomo che poteva essere suo genero se... scosse il capo. Nessun se, almeno quella sera. Ruppe il sigillo di cera del Mauti, dannata, e riempì un bicchiere per 20 d'agosto, che se ne stava tranquillo, fumando beatamente una sigaretta. Era di nuovo grassottello come era stato da bambino, ma il suo abito di lana grigio alla Mao era confezionato con cura e dal taschino sul petto spuntava un numero impressionante di penne a sfera, segno inconfondibile delle sue eccezionali possibilità. «Come hai fatto?» gli chiese. Il sorriso gli fece comparire delle fossette sul volto, ma lui non rispose, limitandosi a stringersi nelle spalle compiaciuto. Non me lo dirà, pensò lei. Non l'ha mai fatto, non lo farà mai. Ma euforica come era stata a 16 anni il giorno delle nozze, cercò di strappargli il segreto mentre mesceva per sé e per promessa costante un po' di liquore forte e incolore. Sì, 20 d'agosto, come sei riuscito a ottenere questo e quello e quell'altro ancora? Promessa Costante aggiunse la sua voce suadente a quella di lei, indicando uno dopo l'altro i piattini pieni di gamberi, maiale, pollo, pesce e carne. Da quel che mi ha detto mia sorella, questa carne è più di quanto una famiglia possa sperare di acquistare in un mese. Non mi sorprenderebbe se la nostra cena di stasera ti fosse costata tanti renminbi quanto pesa. Ah, zio, tu che vieni dalla terra dei dollari non capisci che il denaro non conta nulla in uno stato socialista, esclamò 20 d'agosto. Tuttavia, dopo essersi guardata rapidamente a destra e a sinistra, l'una di primavera sussurrò: Tuttavia, i buoni per le razioni sono più cari dei biglietti per l'immortalità. E risero. No, è stata una cosa da niente. 20 d'agosto sospirò. Anche se il cielo può cadere e la terra dissolversi, la gente non cambia e io, si diede un colpetto sul naso, ho il dono di scovare le persone giuste per ottenere quello che voglio. Sollevando il bicchiere urlò: Al popolo! Al popolo! Al popolo! Svuotati i bicchieri, cadde il silenzio, una pausa ristoratrice come il vino. I pensieri di Luna di Primavera tornavano agli anni che loro tre avevano passato insieme, a scene che fino a quella sera non erano mai riaffiorate nella sua memoria. Seduta fra loro due nell'albergo di Hong Kong in cui avevano trascorso le prime settimane, lei che leggeva ad alta voce la lettera di Virtù Splendente, la quale raccontava come, fingendo di essere pazza, si era salvata da coloro che potevano farle del male o cacciarla dalla casa dei Chang. Nuovo destino che arrivava di corsa agitando il giornale che annunciava il fronte unito fra il Kuomintang e i comunisti. Nonna, nonna, ora possiamo tornare in Cina, ora possiamo tornare a casa. Talento nobile in uniforme, il giorno in cui li aveva lasciati. Anche allora aveva saputo che il giovane zio non sarebbe tornato dalla guerra, eppure lui sembrava così felice mentre agitava le mani strette a pugno. La mia artrite è scomparsa, si vantava. Devo ringraziare i giapponesi per questo e per il fatto che sono di nuovo un soldato. Promessa Costante, che le mostrava timidamente la dedica a lei all'inizio del suo primo libro, intitolato Lo studente ritornato, a mia sorella, Luna di Primavera, e a mio zio, Talento Coraggioso, che fu il primo ad avere il coraggio di partire e ritornare. 20 d'agosto, circondato da uno stormo di lustrascarpe che gli lucidavano la giacca di cuoio che esibiva quando questi indumenti, indossati dalle American Flying Tigers, erano tanto ambiti dai non combattenti. Nei momenti peggiori non dimenticava mai di dire le parole appropriate a ogni occasione e di fare doni sbalorditivi. Quante fortune hai ammassato e perduto 20 d'agosto negli anni che abbiamo trascorso a Hong Kong? Domandò lei, sorpresa di aver espresso ad alta voce il suo pensiero. Cercarono di ricostruire i fatti continuando a servirsi dai piattini con le bacchettine e ridendo quando non si trovavano d'accordo. Quando Promessa Costante diede la sua versione del crollo del mercato della soia, 20 d'agosto abbassò la testa vergognandosi. E pensare che ho accettato il denaro delle vedove. Promessa Costante gli diede un colpetto sulla spalla. Ma era denaro tuo. denaro che le donne riciclavano da anni fra di loro al tavolo di Mahjong. Inoltre, gli ricordò Luna di Primavera, tu in cambio hai dato loro dei titoli di Stato. Lui arrossì. Erano senza valore, dunque, pensò lei. Poi rapidamente accorse in suo aiuto. Ricordi che la seconda prozia rifiutò di parlare con mia madre per una settimana? Né un buongiorno né un buonanotte, tutto perché mia madre aveva vinto a Mahjong quando tu avevi riferito che i titoli avevano perso valore e il mattino dopo tu annunciasti che le azioni erano state dimezzate. Improvvisamente tutti scoppiarono a ridere, ancor più forte di prima. Scht! Li ammonì lei, indicando la porta e le pareti. Dobbiamo smettere! Mi fanno male le mascelle, basta! Poco a poco si calmarono e cominciarono a mangiare veramente. Se muoio questa notte, morirò felice, pensava lei. Mio figlio, che porta il nome del mio primo amore e i tratti del secondo, è qui accanto a me. Anche se non mi chiamerà mai madre, ora non ha più nessuna importanza. Importa soltanto che si sia trattato bene nella vita. Promessa costante, riempì di nuovo i bicchieri e disse: Ricordi le nostre partite con nuovo destino a Chongqing? Come potrei dimenticarle? 20 d'agosto fece finta di svuotarsi le tasche. Non facevo che perdere. Luna di primavera sospirò. Era la prima volta che giocavo a Mahjong. Quanti anni avevo? 60? E non ci fu mai giocatrice più imbattibile, disse 20 d'agosto in tono accusatorio. Non giocavi mai meno di un drago puro. Sì, pensò lei, sì, era vero. Che ci bombardino pure, aveva dichiarato, non scapperò più, dopo tutte le migliaia di lì che ho fatto. In fondo non correvano gli stessi rischi, sia che restassero lì a giocare, sia che si rifugiassero nelle caverne. Dal momento che lei non era corsa a nascondersi, gli uomini le erano rimasti vicini. Con le tendine chiuse durante le incursioni aeree, loro avevano giocato Mahjong al lume di candela. Alzando il suo bicchiere fece un brindisi ai draghi puri. Ai draghi puri! Urlarono i due uomini, svuotando i bicchieri che 20 d'agosto riempì prontamente. E altrettanto prontamente lei sollevò di nuovo il suo. Alla vita! Alla vita! Alla vita! Dopo il pasto, Promessa Costante offrì un sigaro a 20 d'agosto e fumarono in silenzio, mentre Luna di primavera sparecchiava, riponendo ordinatamente i rifiuti in una scatola che teneva accanto alla finestra. Non si affrettò, fingendo che questa fosse una sera qualsiasi, non un sogno, fingendo che fosse la prima di molte altre e non un momento eccezionale. Soltanto quando il tè fu pronto e lei ne ebbe versato una tazza a ciascuno, Promessa Costante ruppe il silenzio chiedendo: 20 d'agosto, come mai sembri andare d'accordo con il comunismo? Ah! Lui si rizzò a sedere, gli occhi scintillanti. Non ho mai corso nessun pericolo. Non capisci che sono assolutamente indispensabile alla rivoluzione? Marx, Lenin, Stalin e Mao mi hanno assicurato lunga vita. Tu devi capire che io, il capitalista, il borghese, devo sopravvivere, perché senza nemici di classe, come può esservi lotta di classe? Forse in teoria, ma Promessa Costante, lascia che ti spieghi. Intervenne Luna di primavera scostando la sua tazza di tè e avvicinando la sedia al tavolo. Mentre tutti gettavano oro e gioielli nel fiume, temendo di essere marchiati come nemici del popolo, 20 d'agosto nascose i suoi oggetti preziosi fra le copertine degli scritti di Mao o dietro i ritratti di quest'ultimo che aveva appeso dappertutto sulle pareti della sua stanza. E perché nessuno si azzardasse a fare ricerche più approfondite, sparse per la stanza odore di escrementi. Pochi se la sentivano di entrare e ancor meno di frugare fra le sue cose. Ma dal momento che le più zelanti erano le ragazze, lui ogni giorno se ne stava placidamente seduto in attesa, senza un panno addosso. Che risate ti saresti fatto se mi avessi visto così, con soltanto una sigaretta addosso! Sghignazzava. Poi tutti e tre scoppiarono a ridere, come se si dessero il turno, quando uno smetteva ricominciava l'altro. Promessa Costante fu il primo a ridiventare serio. Ma perché? Domandò, asciugandosi le lacrime agli angoli degli occhi. Perché gli altri non hanno fatto come te? Improvvisamente l'allegria svanì. Sulla faccia di 20 d'agosto affiorò la desolazione. Lei ripensò allora a quella primavera in cui lui era arrivato a bordo della sua freccia penetrante per corteggiare sua figlia e alla regata dei dragoni. D'impulso si protese per sfiorargli una mano. Gli altri? Fece 20 d'agosto amaramente. Gli altri credevano, e poiché credevano. Improvvisamente sorrise di nuovo con troppa fretta e scosse la testa. Non so. Poi, passandosi una mano sulla pancia, proseguì: così come non capisco come mai la gente abbia paura di fare compere al mercato nero. Sempre dopo avere abbondantemente mangiato, mi presento come mio dovere alle autorità. Che cosa possono farmi più di quanto non mi abbiano già fatto? Sono loro a propagandare l'idea che tutti i borghesi sono corrotti e cedono facilmente al male. Corrotto? Certo, pensò Luna di Primavera, ma è veramente un ottimo amico. Il suo sguardo passava dall'uno all'altro, pensando che era tardi ed era quasi ora che 20 d'agosto riaccompagnasse Promessa Costante all'albergo. Non mi sarei mai immaginata, mormorò lei, non potendo impedire alla sua voce di tremare, non mi sarei mai immaginata di trascorrere una serata come questa. I suoi occhi erano lucidi, ma scosse la testa ricacciando le lacrime. 20 d'agosto si chinò su di lei e mormorò: Zia! Esitò, anche lui con gli occhi umidi. Zia, tu sei resistente. Sicuramente vivrai abbastanza da vedere realizzarsi molti altri sogni. Luna di Primavera scosse la testa. No, non è così. I mortali devono sapersi accontentare per non ingelosire gli dèi. Prese entrambi per mano e tutti e tre rimasero a lungo così, in silenzio. Poi lei si chinò verso il figlio per lisciargli il ciuffo, ricordando quando era un ragazzino che portava scarpe di tigre e pensando alla sua pronipote Primavera di Giada, una bambina che viveva in campagna come un tempo Promessa Costante. Se soltanto che cosa, zia? Oh, è impossibile. Sorella, siamo tutti troppo vecchi per credere che qualcosa sia impossibile. Perché non ci dici di cosa si tratta? Se soltanto potessero venire qui, ci potessimo riunire tutti quanti qui a Shuqiao per una settimana, anche soltanto per un'ora. Chi tutti quanti? Lei annuì, trattenendo di nuovo le lacrime. Promessa Costante guardò la foto della ragazza sul calendario, ma... 20 d'agosto saltò in piedi, si accese un'altra sigaretta, tirando una profonda boccata, camminando avanti e indietro, fermandosi come per riflettere fra una frase e l'altra. Non è detto che sia impossibile. Con un così distinto cino-americano in visita, forse ci si potrebbe riuscire. Cominciò ad annuire, sorridendo. Mi sento fortunato questa sera, zia. Ti prego, non agitarti. Lascia che mi occupi io di tutto. Poi, con un ampio gesto, si inchinò profondamente davanti all'uomo più giovane di lui e proclamò: Mio stimato zio, mio onorevole zio, andiamo. Luna di Primavera li accompagnò all'uscita e rimase a osservarli finché scomparirono nell'oscurità. Quando infine chiuse la porta, li sentiva ancora ridere. Sulle alture, vicino alla città di Shuqiao, le tombe erano ricoperte di erbacce, le lapidi spezzate e sparpagliate. I membri del clan erano giunti da oltremare, dalla campagna e dalle terre di confine. Era un giorno in cui le colline erano verdi e il vento dolce. Così, insieme, erano 5 generazioni. La madre guardò il figlio, poi cominciò: Onorati antenati, onorate antenate, finalmente siamo qua. Quando la cerimonia fu terminata, Luna di Primavera andò a sedersi sotto un giovane cipresso che riparava il piccolo cimitero dal sole di mezzogiorno. Aspettò che la sua famiglia si radunasse e ascoltasse la storia che le avevano chiesto di raccontare. Tutti, tranne il più giovane, il suo pro-pro-pronipote, l'avevano già sentita. Avrebbe cominciato dall'inizio, da Pan Ko. Improvvisamente, da lontano, giunsero i deboli rintocchi delle campane di bronzo. Chiuse gli occhi per ascoltare e ricordare. Vide allora i membri del clan dei Chang sfilarle davanti agli occhi e salire lentamente con dignità sulla collina. Gli uomini indossavano vesti di seta foderate di pelliccia e portavano copricapi neri. Le donne e i bambini, casacche foderate di pelliccia, gonne rosse ricamate, e fra i capelli avevano bande di velluto ornate di perle e giada. Ciascuno portava un piccolo braciere di ottone con tizzoni ardenti. Aprendo gli occhi, l'una di primavera si chinò sul bambino e lo prese per mano. Postfazione dell'autrice. Il 3 novembre 1938 mia madre ebbe due importanti cose da fare. La prima fu di spedire un telegramma a mio padre nel Hunan per annunciargli la mia venuta al mondo. La seconda fu di mandare a chiamare Wai Kung, il mio nonno materno, per predire il mio destino. Benché Wai Kung praticasse la medicina tradizionale e fosse poeta e calligrafo, era anche un veggente. Con cura egli mi studiò la linea delle mani, la distanza delle sopracciglia, la lunghezza dei lobi delle orecchie, la configurazione della testa e i tratti del viso. Consultò anche carte e diagrammi del cielo molto complessi, prendendo nota che ero nata nell'anno della tigre alle 3 del mattino. Questo momento esatto era di importanza cruciale perché allora e soltanto allora le caratteristiche della tigre venivano esaltate. Inoltre, anche mia madre era nata nell'anno della tigre. E infine ero nata esattamente nello stesso giorno di mio padre e di mio nonno. Terminati i suoi calcoli, Wai Kung annunciò: "Figlia maggiore, non ho mai visto tanti buoni auspici in una creatura così piccola. La sua vita sarà piena, il suo animo forte, non hai assolutamente alcun motivo di essere preoccupata. Questa bambina avrà una ricca esistenza." Quasi non ricordo più Wai Kung, ma la sua profezia mi rafforza e mi conforta ogni giorno. Persino durante le mie rare depressioni mi riprendo subito, indignata e in collera per ricordare al destino le sue promesse. Non so esattamente perché le parole di mio nonno abbiano agevolato il mio cammino. Come gran parte dei cinesi, sono profondamente fatalista, di animo troppo complesso per essere religiosa e di natura troppo superstiziosa per negare gli dèi. Eppure, a un certo punto della mia vita, la magia del Tao mi ha indotta a credere che le profezie di mio nonno non erano soltanto un rituale per compiacere la figlia maggiore, e finora non ho avuto smentite. La mia ultima fortuna è stata l'aver potuto completare un intero ciclo del mio destino nell'arco della primavera e dell'estate della mia vita, cominciato con la mia nascita in Cina e continuato in America, ora mia patria, ed è culminato in un ritorno estremamente propizio nella terra delle mie antenate e dei miei antenati. Nella loro saggezza gli dèi mi hanno fatto attendere 27 anni prima di ritornare. Soltanto a 35 anni potevo infatti guardare la vita da entrambe le prospettive, come madre e come figlia, come cinese e come americana, come giovane e come anziana, individuo singolo e membro di un clan, attirata tanto dalla storia quanto dai sogni, consapevole ormai che la vita ha un suo limite e che la morte non è soltanto una parola. Nel momento in cui la mia coppa era esattamente a metà piena e a metà vuota, io ero in grado di inserirmi nel mondo cinese. Là ho sentito parlare dei miei antenati e ho visto la vita dei miei parenti, la vita che io stessa avrei potuto condurre. Lo spirito di Luna di Primavera vive in quel viaggio. Abbraccia i titoli dei giornali, gli slogan comunisti, i principi occidentali, il divario culturale, l'isolamento politico e le barriere linguistiche, fino a raggiungere il cuore e i pensieri dei membri del mio clan. Essi vivono in tutta la Cina, da Shanghai a Xi'an, ve ne sono di neonati e di vecchi, eroi del movimento comunista e martiri della rivoluzione culturale, spazzini e vicepresidenti, reietti e vincitori, vivi e morti. Una volta mi rattristai molto per il solo fatto di non poter incontrare Wai Kung per 3 anni, eppure, se le nostre mani si fossero veramente toccate e i nostri cuori abbracciati al mio ritorno, tale felicità avrebbe forse fatto impazzire gli dèi di invidia. Nulla li avrebbe distolti da una terribile vendetta, ma questo avvenimento non si verificò mai, e la gelosia degli dèi fu placata dal silenzio del nostro mesto incontro. Wai Kung dorme sottoterra nelle vicinanze di Suchao, ha le montagne che lo proteggono dal vento, pascoli verdi da contemplare, l'ombra di un boschetto di bambù, la profonda quiete del lago Taihu e la melodia delle brume sopra l'orizzonte. E ha un nome da poco inciso nella pietra. Quest'uomo è nato, vissuto e morto, La lapide non verrà né travolta né spezzata, abbandonata o portata via, resterà in piedi, resisterà per mio nonno, per noi, per le mie radici cinesi. Così, quando un giorno i figli dei miei figli e i loro figli, che non parleranno cinese, non avranno un aspetto cinese né conosceranno la Cina, visiteranno questo solitario antenato, si sentiranno anch'essi cinesi, come mi sono sentita io quel pomeriggio davanti alla sua tomba. Là, mi sono inchinata 3 volte, vi ho lasciato crisantemi e ne ho attinto serenità per mia madre. Finora la profezia di Wai Kung non è stata smentita. Bette Bao Lord, New York 1981. Fine.